Summertime di Elisabetta Fiorito. Era l'ultimo giorno, anzi no, era già il primo giorno dell'ora solare di quest'anno qui, quest'autunno. L'ora che ti fa dormire un'ora in più, quel giorno bellissimo. Io mi sono alzato alla stessa ora, sono andato in montagna. Ho finito un'ora prima, ero ai piedi delle Alpi, sono andato in una stazione a Borgo Valsugana. Bellissima. È una stazioncina in legno, austriaca, austriacante, col marciapiede in terra battuta, non c'è cemento in giro. Arrivo 5:30 pomeriggio, guardo l'orario, alle 5:24, insomma 5:30 scarse sarà stato, ero in orario, 5:24 arriva il locale della domenica Bassano Trento, il 55:92. Sarò arrivato lì appunto 5 minuti prima, neanche. Mi preparo la macchina. Buon pomeriggio. Quello che sentite è Marco Paolini nella macchina del capo, che questa sera, nell'ambito del Festival di Bassano del Grappa, Opera Estate Festival Veneto, che celebra quest'anno 30 anni di vita, sarà sul palco proprio con questa pièce, che è una serie di racconti. Paolini, buongiorno. Buongiorno a lei. Sono una serie di racconti brevi messi in fila come tratti dal diario, da un album, appunto, come io chiamo queste storie, autobiografico. In questo caso si tratta di storie di un bambino nell'Italia degli anni 60. Quindi si parte dall'Italia degli anni 60 in Veneto e poi si prosegue come? Più o meno non si va molto lontano nel tempo, perché questa storia è agganciata appunto a una stagione, quella in cui il sottoscritto cambia casa, se ne va a stare in pianura e quindi esplora una parte del mondo che non conosceva, e poi me ne vado in colonia, quindi conosco anche il mare, quindi è la storia di un bambino prealpino avviato alla scoperta dell'Italia, intrepido neanche tanto, però comunque curioso. E c'è la scuola, ci sono le tabelline, lo scancellino, come si diceva, ai vecchi tempi. E che cosa, allora, lei è chiaramente famoso anche per i suoi spettacoli di denuncia, invece questo qui è proprio uno spettacolo intimista. Sì, questo è il mio cinepanettone, io lo chiamo così, perché è nato perché si tratta di materiali su cui io ho lavorato molti anni fa, su cui ho imparato a raccontare le mie storie. Poi sono passato a storie più impegnative, queste sono un po' un repertorio che rimaneva lì, che sono sicuro che me le ricordavo, però mi sono chiesto chissà come sarebbe rifarle a distanza di tempo, avresti ancora quell'incanto per poter dare faccia a un bambino di 8 anni senza truccarti, senza bambineggiare troppo, senza fare il gigione. Questa era un po' la sfida, di giocare la carta della leggerezza senza strafare, ecco. Niente di più, cioè non è inutile zavorrare uno spettacolo come questo di contenuti che sono sfiorati, leggeri. A me fa piacere farlo, ovviamente è una specie di pausa in mezzo ad altre cose, un po' più toste, però lo faccio volentieri, mi diverto molto insieme a Lorenzo Monguzzi dei Mercanti di Liquore, che mi accompagna sul palco. Quindi c'è anche musica? Sì, dal vivo. Ecco, un'ultima domanda, visto che è proprio uno spettacolo intimista, però il Marco Paolini bambino del Veneto negli anni 60 e invece il Veneto di oggi, come non stride un po'? Non è solo il Veneto in realtà, no? Cioè, direi che è un po' è tutto il mio paese che ha cambiato i connotati, noi facciamo fatica ad ammettere di essere cambiati noi, pensiamo che sia cambiato il paese, in realtà siamo cambiati noi, lo abbiamo cambiato, ci siamo fatti cambiare, è interscambiabile questa cosa, però non si può cercare un capro espiatorio di questo. Io mi prendo le mie responsabilità, però rispetto a tutto questo sto all'occhio, non mi va di dare definizioni folgoranti della modernità, perché ci devo sempre pensare, quando me le chiedono non ho mai la risposta pronta. Qual è la frase che le piace di più di questo bambino? Sono tante, la frase con cui inizio, cioè no, non è proprio all'inizio dello spettacolo, in cui a un certo punto dice: sono un bambino prealpino, sono nato ai piedi delle Alpi, i piedi delle Alpi non puzzano perché piove. Allora, con questa immagine anche poetica lasciamo Marco Paolini, un Marco Paolini abbiamo sentito intimista, che sarà questa sera con la macchina del capo al Castello degli Ezzelini a Bassano del Grappa, ore 21:20, proprio per inaugurare l'Opera Estate Festival del Veneto, che quest'anno celebra i 30 anni di vita e che va avanti fino al 4 settembre. Grazie. Prego. Però alla fine ho deciso che non parcheggerò autoscontri, farò il ferroviere e sopra il mio treno papi o re saranno tutti uguali a me. E dal profondo nord di Marco Paolini noi passiamo al profondo sud, perché si apre oggi Taormina Arte con uno spettacolo abbastanza particolare, Sorelle d'Italia, al Palazzo dei Congressi alle 21:30, un avanspettacolo fondamentalista con niente proprio di meno che Isa Danieli e Veronica Pivetti, le quali, lo dobbiamo dire, stanno provando e riprovando, non sono riuscite a venire al telefono. Per noi c'è però il direttore artistico Simona Celi. Buon pomeriggio, e allora, molta emozione per questa sera? Buon pomeriggio a voi, moltissima emozione, perché stasera parte anche il cartellone di Taormina, sezione teatro, per cui abbiamo varato la stagione e veramente l'emozione è tanta. Stasera apriremo con questo spettacolo che è molto curioso, intanto perché è una forma di spettacolo diverso, l'avanspettacolo che non si vedeva più da anni, e in scena questi due mostri sacri della televisione, del cinema, del teatro soprattutto, con un testo curioso di Roberto Buffagni su un'ipotesi di Italia tra il 2011 e il 2061. Le signore battaglieranno, tra virgolette, in scena, ovviamente sulla diatriba storica di nord e sud, attraverso le canzoni, attraverso le musiche, da Edoardo a Iannacci. E sarà uno spettacolo sicuramente molto interessante, ed è uno spettacolo molto divertente. È una prima teatrale, lo spettacolo ha fatto un debutto in una piazza ad un festival, però fa un debutto teatrale in prima qui da noi. Quindi Sorelle d'Italia, poi si va sul nascere anche una prima nazionale, Il giorno della civetta, e serata di gala per Taormina, Il timballo del gatto pardo, Don Quixote, Arturo Brachetti and Friends, Muraglie, Tom Paine, Terra matta, premio internazionale Taormina per il teatro, The Infernal Comedy e Religio, fino a settembre. Questi sono solo gli appuntamenti della sezione teatro, poi ci sono gli appuntamenti della sezione musica, la Turandot, il Royal Ballet of London Gala, il Lago dei Cigni, Maratona Chopin, Spartacus, Giselle, insomma, chi più ne ha più ne metta. Quest'anno avete esagerato a Taormina. Insomma, vogliamo dare anche il segno di un festival che ha una fertilità culturale e produttiva, e che insomma ha un bel motore. Un bel motore, direi proprio. L'appuntamento è sempre alle 21:30 al Palazzo dei Congressi oppure al Teatro Antico, dipende, le cose di teatro al Palazzo dei Congressi mi sembra per lo più, mentre al Teatro Antico gli spettacoli di musica. Non resta che augurarvi in bocca al lupo, e tanto ci risentiremo tante e tante volte. Crepi il lupo, grazie, grazie mille, buona giornata. Mi raccomando, mangi una granita anche per noi. Siamo alla terza, è l'unico modo per difendersi da questi quasi 40 gradi di oggi. Una buona granita siciliana per tutta Italia, grazie. Grazie, grazie mille. Alexis è l'histoire d'un jeune homme très doué, mais assez fragile, de santé et enfin surtout de résistance à la vie, aux difficultés que lui présente la vie, qui est homosexuel, pour employer ce mot. Puisque non trovo più per il momento. Questa che sentite è un'intervista rilasciata al tempo da Marguerite Yourcenar su Alexis o Il trattato della lotta vana, un romanzo giovanile che questa sera sarà proprio al Fontanone del Giannicolo a Roma, con la regia di Massimo Di Michele e con Pier Giuseppe Di Tanno. Buon pomeriggio, Pier Giuseppe. Buon pomeriggio a voi. Allora, che ruolo interpreta e di che cosa parla questa pièce? Hai detto benissimo, il testo è Alexis o Il trattato della lotta vana di Marguerite Yourcenar, è il primo romanzo che scrive Marguerite Yourcenar, il suo primo tentativo di prova nel 1929. Io interpreto appunto Alexi, si tratta di una lunga lettera che questo personaggio scrive a sua moglie per lasciarla, e noi abbiamo tentato così di portarlo in teatro e speriamo di esserci riusciti. Ecco, ma perché vuole lasciare la moglie e soprattutto ci riuscirà? Visto che c'è la lotta vana, perché la lotta è vana? Ma la lotta vana è quella contro se stessi, è quella che si combatte con se stessi. È difficile vincere le proprie inclinazioni. Forse ci sono situazioni in cui il corpo e le sue volontà sono molto più resistenti di qualsiasi nostra intenzione intellettuale. Ecco. Lui vuole lasciare la moglie, riuscirà a lasciarla nonostante abbia avuto da lei anche un figlio, perché è omosessuale. Quindi vabbè, è un testo poi del 1929, quindi diciamo così. Magari, poi scritto da una donna, ed è impressionante come insomma una scrittrice donna per l'appunto riesca così a indagare nelle inclinazioni sessuali di un uomo, nelle sue così esigenze. Ecco, ma oggi come oggi è possibile nel 2010 che un uomo sia sposato e abbia una figlia, però sia anche omosessuale, quindi lascia una moglie, eccetera? Oppure magari la nostra società sia un po' più evoluta e le persone no. Capiscono subito come sono, no? Secondo me è un romanzo di un'attualità spaventosa, perché ma è una condizione assolutamente verificabile anche al giorno d'oggi, potrebbe assolutamente essere insomma quotidiano il fatto che un uomo scopra la propria omosessualità o scopra di non poter più combattere contro questa sua inclinazione, al punto da lasciare tutto quello che ha costruito, in questo caso appunto una moglie e un figlio. Pier Giuseppe Di Tanno nel ruolo di Alexi, questa sera a Roma al Fontanone, estate al Giannicolo, ore 21, con questo testo di Marguerite Yourcenar. Grazie. Grazie a voi. Summertime. Noi proseguiamo andando a scovare qualcosa di classico, di classico ma evergreen, come si dice. Aristofane Cabaret, insomma, Aristofane già è un po' sicuramente comico, non proprio cabarettista. I Cavalieri di Mario Perrotto. Dai testi proprio di Aristofane, che ci saranno questa sera all'Anfiteatro Romano a Urbisaglia, in provincia di Macerata, regione Marche. Allora, Mario Perrotta, uno spettacolo tutto Aristofane minuto per minuto, un po' così? Sì, buongiorno, buon pomeriggio anche agli ascoltatori. Dunque, sì, l'ho chiamato cabaret proprio perché ho mischiato il sarcasmo, lo spirito critico corrosivo di Aristofane con uno stile che è molto più vicino a noi, che è quello del cabaret, non inteso come lo Zelig, ma il cabaret quello classico di Pietrolini, ma anche di Kurt Weill e Brecht, usando insomma qualcosa che noi riconosciamo come stile e riscrivendo alcune parti dei testi che ovviamente facevano riferimento alla situazione politica e sociale dell'epoca, e io l'ho portato ad oggi perché viviamo una situazione abbastanza simile a quella della Grecia in cui scriveva Aristofane. Ho cercato di recuperare lo spirito dell'autore classico, però come sempre faccio nei miei testi, riscrivendo poi con un mio stile. E per quanto riguarda I Cavalieri, che fu proprio un premio alla regia di Aristofane all'epoca, noi sappiamo che è un'opera contro Cleone, il successore di Pericle, alla guida dei democratici ateniesi. Chi è allora Cleone oggi in Italia? Ma non ci viene in mente un nome che no, fa un po'... Cleoni, insomma, non lo so, non mi viene in mente nessuno. Ma c'è una rima pure, Cleone Berlusconi. Sì, in realtà l'intuizione di quel testo di Aristofane è proprio questa, cioè per cacciare Cleone, che era il capo appunto del governo dell'epoca, e proprio per il fatto che lo attaccava Aristofane fu anche arrestato, lui nel testo dei Cavalieri dice ci vuole qualcuno di ancora peggiore. se è possibile. Per cui sceglie un macellaio, uno che viene dalla piazza, uno che viene dai bassi fondi dell'Atene dell'epoca, per contrastarlo in impudenza, cioè aveva intuito sarcasticamente che per cacciare un impudente ci vuole qualcuno di ancora più impudente, e quindi è uno scontro al ribasso nel testo di Aristofane. Cominciano a promettere nello scontro politico per essere eletti, cominciano a promettere alla gente di dare le fave a prezzo più basso, poi di regalare il pane, fino alle scurrilità più oscene che sono tipiche di Aristofane, cioè di spazzare con una scoreggia tutto il Parlamento e prendere il potere. Insomma, qualcosa di molto simile a quello che i nostri politici ci propinano a porta e programmi simili, insomma. Sì, no, poi Aristofane ha questo sarcasmo molto duro e in effetti anche un linguaggio un po' colorito. E quindi una pièce però che dura molto, moltissimo, perché almeno siete in tantissimi scena, uno, due, tre, io vedo insomma, quanti siete? Quattro, cinque, sei? Siamo sei attori in scena e un musicista che è Mario Arcari, che è un grande musicista che tutti gli ascoltatori avranno sentito nei dischi più importanti di André o di Fossati o con Boniavali, insomma, sono fiero di averlo in scena con me. In realtà la mia riscrittura ha ridotto molto la durata dello spettacolo, è molto conciso, spero anche molto pungente. Poi appunto, riguardo la volgarità presunta di Aristofane, io credo che sia molto più volgare lo spettacolo televisivo a cui assistiamo tutti i giorni. Ma certo, poi Aristofane in questo era un grande, lo sappiamo, lui diceva le cose pane pane e vino al vino. Allora, I Cavalieri, Aristofane Cabaret di Mario Perrotta, abbiamo sentito testi di Aristofane e non solo, questa sera all'Anfiteatro Romano alle 21.30 a Urbi Saglia in provincia di Macerata, e poi il 28 luglio Lunatica Festival a Bagnone. Grazie Mario. Grazie mille, grazie a voi, buon proseguimento. E adesso col nostro splash della nostra sigla ci immergiamo nell'atmosfera di Tropea, perché il premio Tropea ha avuto un'inattesa vittoria. Buongiorno Pasqualino Padullo, presidente dell'Accademia degli Affaticati. Buongiorno l'associazione a voi. Buongiorno promotrice. A voi. Proprio così una Chi ha vinto? Un epilogo bellissimo, perché inatteso. Ha vinto Mattia Signorini con La Sinfonia del Tempo Breve, edito da Salani. E se pensiamo che gli altri due finalisti erano Gad Lerner e Alicia Jimenez Bartlett, c'è veramente da stupirsi, ma non troppo, perché il voto è assolutamente libero, incontrollabile, viene da una giuria popolare composta da 41 persone, ma soprattutto da tutti e 409 i sindaci calabresi. Va anche detto che questo giovane autore, nativo di Rovigo ma ormai trapiantato a Milano, ha vinto per 3 voti di scarto solamente. Di che cosa parla questo libro? Questo libro è una storia fantastica che col pretesto di descrivere la vicenda di un personaggio, Green Talbot, attraversa tutto il secolo passato, ed è il genere fantastico, quello che può essere applicato come categoria a questo libro, che è un romanzo soprattutto, ma che attraversa gli snodi principali del secolo scorso. Quindi insomma non ve l'aspettate nemmeno voi, Enrico? In realtà no, perché fra due pezzi da 90, come questo scrittore e giornalista icona del giornalismo italiano, Gad Lerner, molto popolare evidentemente, e questa autrice spagnola considerata la Camilleri della Spagna, Alicia Jiménez Bartlett, c'è evidentemente un mantra, uno spirito più alto che sovrasta il premio Tropea, ed è capace anche di questi risultati. E c'è da esserne contenti naturalmente, perché tutto sommato la vittoria di un autore giovane è, come dire, è sempre incoraggiante. E allora, Mattia Signorini, autore della Sinfonia del Tempo Breve, edito da Salani, un autore giovanissimo, ha vinto il premio Tropea. Ringraziamo Pasqualino Padullo e diamo appuntamento al prossimo anno, quindi ricordiamo La Sinfonia del Tempo Breve. Io ringrazio Alessandro Chiappini in regia, Gloria Guerrera in redazione. Vi ricordo che ci potete scrivere a summertime@radio24.it, oppure che potete riascoltare la puntata sul nostro sito www.radio24.it. radio24.it e dare uno sguardo agli appuntamenti della serata. Per conto mio, per quanto mi riguarda, non mi resta che augurarvi buona serata.